l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta, come ogni settimana, dagli studi milanesi di Radio 24 con il nostro appuntamento dedicato all'Europa, l'Europa delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità. Europa che viene raccontata giorno per giorno da Radio 24. Noi sabato cerchiamo anche altri punti di vista, un programma realizzato in collaborazione con il network Euronet Plus, euronetplus.eu, il portale per vedere il lavoro delle 14-15 radio europee che cercano di trovare una voce comune per raccontare le tante Europe. Potete trovarci anche come sempre sui social network Euronet Plus R24 oppure Federico Taddia, il mio account personale, sia su Facebook sia su Twitter, piazze che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Anche oggi tanti ospiti, tante voci, tante storie e tanto viaggiare. E partiamo da Edimburgo. Chiama Utopia o Utopia, si può giocare anche con il doppio accento, un progetto finanziato dalla Commissione Europea permette di fare dei reportage in giro per l'Europa attraverso il sito Caffè Babel, che bene conosciamo, questa voce alternativa della narrazione europea, e ha partecipato al progetto una giovane aspirante giornalista italiana che ha realizzato un ottimo lavoro da Edimburgo, dove è andata alla caccia, alla ricerca dei NEET. Questi giovani sono tanti, tantissimi in Europa, secondo i dati della Commissione Europea sono oltre 14 milioni di giovani che non lavorano, che non studiano, che non fanno nessun tipo di apprendistato, e lei ha voluto andare in Scozia per capire, fotografare là com'era la situazione. Diamo il benvenuto a Federica Mastroforti. Ciao Federica. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Aspirante giornalista, ma già con la giusta curiosità per girare l'Europa alla ricerca delle notizie. Come mai il tuo focus lo hai indirizzato proprio sui NEET? Sì, allora dunque diciamo che Caffè Babel è già molto appunto sulle politiche dei giovani e sulla, appunto, sul problema della disoccupazione, quindi io volevo puntare su questa diciamo piccola categoria che non la conosce quasi, potremmo dire, nessuno. Certo, tanti titoli sui giornali, esatto, tanti titoli, ogni tanto esce questo nuovo acronimo che nasconde dietro un mondo, e tu sei nata al di là dei numeri, insomma. Sì, quello che ho trovato è stato appunto una realtà totalmente diversa da quella che appunto è scritta nei vari documenti della Commissione, perché appunto loro parlano di numeri molto alti, in Scozia sono quasi al 14%, la realtà è invece che diciamo di questo numero, di questo grande numero, solo una piccolissima parte, un numero diciamo molto piccolo di giovani che vanno verso le cosiddette, loro le chiamano negative choices, ovvero problemi di appunto vandalismo e alcol e appunto diciamo nel cosiddetto limbo della droga o il tunnel della droga. Comunque insomma siamo già nel campo della devianza in questo caso. Gli altri invece, che sono ragazzi che tu, ragazzi e ragazze che hai incontrato, sono persone che hanno smesso di studiare, però sono alla ricerca di possibilità, di opzioni alternative. Sì, certo, io ho appunto ha sentito le voci di questi tre giovani, più o meno una media di 20 anni, tra cui una ragazza di 16, sì. E di questa appunto di Tomorrow's People, che è una sorta di club che appunto gli dà una mano per appunto trovare un primo lavoro, una prima appunto un primo, non so, stage. E loro erano molto diciamo consapevoli della loro scelta, mm-hmm. E pur appunto essendo molto giovani erano sicuri di poter trovare appunto anche in un futuro diverso da quello dei loro coetanei una loro vita, quindi non è una scelta per forza sbagliata pensare di poter costruire un futuro senza scuola. E quindi erano molto, ecco, positivi e non appunto come vengono dipinti da questi documenti, diciamo, appunto della commissione, molto abbastanza, diciamo, allarmisti sulla questione, ecco, per quanto riguarda la mia opinione, ovviamente. Certo, numeri comunque preoccupanti per quello che succede in Europa, perché si parlano veramente, cioè 14 milioni di ragazzi che non fanno nulla, sono uno spreco di potenzialità, di energia, di creatività. Però appunto bisogna capire cosa vuol dire questo non fare nulla, che è quello che hai individuato tu, perché ci sta che un ragazzo abbia non abbia più la voglia di studiare. L'importante è avere alternative, avere possibilità, avere altre vie da prendere, e la politica questo deve fare, comunque instradarli, dare queste opzioni. E Federica, ho visto che c'è una scadenza molto prossima, perché è lunedì, di un'altra call relativa a Utopia o Utopia? Voi ufficialmente come la definite il progetto? Utopia, ok. Utopia, sì. L'idea, allora, ci si può proporre entro lunedì tramite Caffè Babel, sì. E si va a Bratislava dal 2 al 6 luglio, perché l'idea è proprio quella, si battezza una località, un posto, una città, e bisogna proporre un'idea su un lavoro da fare in quella location. Sì, sì, sì. Tre proposte su appunto vari temi, tematiche sui giovani, sulla società, sulla politica. Questa è l'idea, diciamo, e cercare sempre appunto di rimanere on the ground, perché uh-huh. questa, diciamo, l'idea del progetto, stare in mezzo alla vita di quella città e insomma viverla e cercare di trarre le tematiche più, insomma, vive. Questa è l'idea del progetto. Abbiamo pubblicato sui nostri social network il link sia al tuo reportage sia alle coordinate per poter partecipare a questo progetto. Ciao Federica, grazie e complimenti. Grazie. Ancora. Ciao, ciao, ciao. Adesso un euro post-it e poi le informazioni per chi sta viaggiando è ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Euro post-it. Summer School in cooperazione allo sviluppo. L'Unione Europea è uno dei fornitori di aiuti finanziari allo sviluppo più importanti a livello mondiale. La Camera di Commercio Belgo-Italiana organizza una Summer School in cooperazione allo sviluppo, con l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti una conoscenza specifica nel settore della cooperazione allo sviluppo in ambito Unione Europea, tra lezioni frontali, lavori di gruppo e incontri con consulenti ed istituzioni. Le lezioni durano 2 settimane, dal 7 al 18 luglio, ed esiste la possibilità di stage in Ecuador e a Bruxelles. Per saperne di più, andate sul sito cooperazioneallosviluppo.eu. Per iscriversi c'è tempo fino al 10 giugno. L'altra Europa. Il y a le Parlement, il y a le Conseil européen avec le Conseil des ministres, il y a la Commission européenne, toutes les institutions doivent coopérer, doivent collaborer. Mon nom est Martin Schulz, je suis le président du Parlement européen. My name is José Manuel. Sono istruzioni sul come funziona il Parlamento europeo, spiegato da Aurelio, ormai ex presidente del Parlamento e del Consiglio della Commissione. Ci sono state le elezioni, tanto parlare, la quotidianità ancora ci porta notizie da Bruxelles, poi come sempre l'attenzione dei media scema, quella che era un po' il grande fuoco si sta spegnendo, però intanto là ci sono nomi, ci sono riunioni, ci sono commissioni, c'è tutto il lavoro della politica. Per capire cosa succede ora, perché c'è poi tanta confusione, ok, ci sono state le elezioni, adesso quali sono gli step successivi? Volevo fare così una sorta di fotografare quello che ci aspetta, quello che sta accadendo in queste ore, e per farlo abbiamo invitato il corrispondente da Bruxelles della Stampa, Marco Zatterin. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a voi. Ottimo conoscitore del palazzo, ma anche con taglio ironico, nel senso che riesce a sempre a dare uno sguardo suo da un punto di vista particolare. E poi Marco è anche appena vinto il premio 2014 del Centro Studi Federalisti Spinelli di Ventottene per i tuoi articoli sull'Unione Europea. Credo una bella soddisfazione, perché questa nuova narrativa e questo nuovo storytelling dell'Europa ha bisogno di vento nuovo, e tu ce l'hai fatta. Questo insomma è la dimostrazione. Intanto complimenti anche per il premio. E grazie, te li danno quando comincio a diventare vecchio, però questo è un problema col quale bisogna imparare a convivere. Marco, cosa sta succedendo nel palazzo in queste ore? Perché c'è la politica e poi credo ci sia anche una sorta di algoritmo, di cerimoniale, di ritualità, di scadenze. Cosa ci aspetta? Tutto nasce dal fatto che l'Europa fatica a darsi delle regole precise, perché come abbiamo detto tante volte è un grande condominio dove i condomini hanno interessi, volontà, tradizioni, spiriti diversi, e quindi noi europei, l'Unione Europea si trova a dover rinnovare i propri vertici, la Commissione, il Consiglio e il responsabile della politica estera, con delle regole vaghe che si scontrano contro delle abitudini molto consolidate. I trattati dicono che per esempio il presidente della Commissione, l'uomo che dovrà sostituire José Manuel Barroso, deve essere indicato dal Consiglio, cioè dai capi di Stato dei 28 paesi, tenendo conto del risultato delle elezioni politiche, e poi deve ottenere una maggioranza molto forte al Parlamento europeo. Questo ha portato, come dicevi tu prima, a un grande dibattito prima delle elezioni sui candidati delle famiglie politiche, e quando si è arrivato al dunque, ora abbiamo una buona parte dei leader che sta cercando di riprendersi i propri poteri e designare loro stessi i leader. Conseguenza, grande confusione, incertezza, dibattiti, commissioni, e chi più ne ha più ne metta. Avremmo una soluzione forse presto, probabilmente tardi. Ma questo quindi è un po' un tradimento di una delle grandi missioni che si era data anche la campagna elettorale da parte di tutti i politici, no? Dicendo ai cittadini: sarete voi a scegliere questa volta. Invece no, ci siamo ricascati. Sia un tradimento, nella misura in cui anzitutto i leader europei sono comunque democraticamente eletti, e poi perché proprio in assenza di regole precise c'è stato un tentativo legittimo, giusto e condivisibile, ma anche un po' furbetto, delle famiglie politiche di portarsi avanti col lavoro, dimenticando che comunque vada i leader sono leader e per definizione vogliono condurre, e quindi si è cercato un po' di forzare la mano, e questo è quello che sta succedendo. Da un lato forse le famiglie politiche avrebbero dovuto assicurarsi il consenso più stretto dei leader, e i leader forse non avrebbero dovuto consentire al Parlamento di andare così davanti. Il rischio di una delusione fra quegli elettori che sono consapevoli di che cosa sta succedendo è effettivamente reale, come del resto è reale il rischio di uno scontro istituzionale veramente antipatico in un momento in cui bisognerebbe parlare di crescita e lavoro. Infatti, cosa succede? In queste settimane è tutto fermo lì? O comunque c'è un'ordinaria amministrazione che continua? Allora no, purtroppo non è solo in questa settimana, è tutto abbastanza fermo. La Commissione è entrata in una sorta di situazione letargica veramente, veramente antipatica. Prima delle elezioni hanno smesso di lavorare perché mancavano sette commissari, quindi non avevano nemmeno, che si erano candidati alle elezioni, quindi non avevano nemmeno il potere per prendere decisioni importanti. La Commissione sta uscendo di scena e fino a ottobre farà ordinaria amministrazione. Il Parlamento si sta riunendo, ci sono i primi deputati che arrivano, i nuovi non sanno nemmeno trovare i palazzi, quindi devono imparare a vivere, e il Consiglio continua con l'ordinaria amministrazione pure lui. Siamo in quello che si chiama semestre bianco, di nuovo è normale, è compatibile con le regole, ma fa irrita chi vorrebbe vedere un'azione più forte, visto che c'è gente che fatica ad arrivare alla fine del mese. In una qualche busta è già scritto il nome del tuo Presidente della Commissione, hai fatto una qualche previsione? Per serietà ti rispondo di no, perché non ho veramente la più pallida idea. Ho fatto un blog questa mattina su Strana Europa, che è il mio blog sulla stampa, in cui, non sapendo cosa dire, ho messo insieme tutti i rumori e alla fine viene tutti i rumori, cioè tutte le indiscrezioni, sì, che si sentono, e alla fine viene fuori un panorama che perlomeno per il sabato mattina magari qualcuno può trovare divertente. Io credo che in questo momento chi è convinto di sapere come andrà a finire o è il mago Merlino oppure dice una bugia. La partita è ancora molto aperta e l'esperienza è che il candidato vero salta fuori solo all'ultimo momento. Grazie a Marco Zatterin, Strana Europa, se volete seguirlo su Twitter o sul blog della Stampa, corrispondente da Bruxelles della Stampa. Ciao Marco, grazie, buon lavoro. Ciao e buona trasmissione a tutti, buon ascolto. Europost-it. Forum Mondiale per la Democrazia 2014. Dalla partecipazione all'influenza. I giovani sono in grado di rivitalizzare la democrazia? È questo il titolo della terza edizione del Forum Mondiale per la Democrazia, che si terrà a Strasburgo dal 31 ottobre al 6 novembre 2014. La Fondazione Europea per la Gioventù invita i giovani a partecipare per confrontarsi con politici ed opinionisti in una riflessione sull'esclusione, la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei giovani. Possono partecipare 300 giovani dai 16 ai 30 anni, residenti in uno dei 50 paesi firmatari della Convenzione Culturale Europea, impegnati attivamente in iniziative democratiche della società civile, appoggiandosi ad una organizzazione, una rete o creando un gruppo di lavoro informale sulla democrazia. Per partecipare è anche necessario postare un video di un minuto su YouTube, allegando il link al modulo di domanda. La lingua comune di lavoro sarà l'inglese. Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico del Consiglio d'Europa. Per fare tutto c'è tempo fino al 22 giugno. Trovate informazioni più dettagliate su coe.int nella sezione Youth Foundation. Scadenza 22 giugno 2014. L'Europa delle opportunità e delle possibilità che cerchiamo di presentarvi ogni settimana oggi ha un nome, progetto SEED, significa progetto seme, una delle tante iniziative finanziate dalla Commissione Europea, dai fondi europei, perché ci sono idee che si possono concretizzare e questi fondi possono e sono e diventano un aiuto fondamentale. Ci piace quindi raccontarvi queste storie, perché poi sono storie di passione, sono storie di sacrifici, sono storie di opportunità, sono storie di chi ci crede, e, insomma, al di là dei fondi che servono, sono necessari, però sono il là, sono il seme per progetti molto importanti. SEED Euromed, imprese sociali nel Mediterraneo, ce ne parla Luisa De Amicis, che è vice direttore esecutivo di Euclid Network. Ciao Luisa, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie. Che cos'è questo seme? Che cos'è questo progetto? Allora, questo è un progetto finanziato dalla Commissione Europea che dura 30 mesi e che di base ha come l'obiettivo di sviluppare una crescita sostenibile e creare occupazione, che di fatto sono argomenti di cui si parla quotidianamente, ma non solo in Europa ma anche nel bacino del Mediterraneo, quindi sia la sponda nord che la sponda sud. In particolare l'idea è di sviluppare connessioni tra questi due lati del Mediterraneo e dare l'opportunità ad imprenditori di sviluppare, conoscersi e quindi creare nuove opportunità di business e nuovi lavori. Stiamo parlando di imprese sociali prevalentemente, giusto? Sì, principalmente sì, perché di fatto noi siamo un network europeo che connette imprenditori sociali e organizzazioni della società civile, quindi era nostro interesse cercare di focalizzarsi su proprio le imprese sociali. E 54 scambi, 108 imprenditori coinvolti, questo è il target del progetto? Target è già raggiunto o ancora ci si può proporre? Assolutamente, il progetto è appena iniziato, quindi siamo ben contenti di ricevere candidature. Il progetto è iniziato a marzo, quindi proprio siamo freschi freschi. In realtà la mia organizzazione Euclid è già coinvolta nel progetto Erasmus per giovani imprenditori, che però si focalizza solo sull'Europa. Okay. E lì siamo già molto avanti, perché di fatto siamo già al sesto ciclo del programma, quindi è un programma che va avanti da 6-7 anni. E come sito di riferimento possiamo dare euclidnetwork.eu, credo, appunto, voi siete capofila, sì, sì. Con sede a Londra, vero? Tu lavori da lì? Io sì, lavoro da qui, perché da Londra, perché il network è basato a Londra. Ok, un'ultima domanda, Luisa, ma quando si parla di imprese sociali ci sono ambiti preferiti? Ci puoi dare un po' il range appunto dell'oggetto delle imprese? In realtà no, nel senso che l'impresa sociale è quel tipo di impresa che non mira solo al profitto, ma vuole anche provare a risolvere dei problemi un po' più sociali. Ti faccio un esempio, ci sono delle ragazze che oltretutto hanno partecipato alla trasmissione credo un paio di settimane fa, le ragazze del progetto Quid, sì, che, certo. La cui idea è quella di riutilizzare dei materiali che di fatto sarebbero stati scartati dall'industria e di impiegare donne che avrebbero difficoltà a trovare il lavoro. Quindi per noi quella è un'impresa sociale, ma poi posso farti tanti altri esempi che di fatto esulano da questo. Quindi per esempio noi avevamo collaborato con un'impresa che di fatto faceva catering nell'area di Napoli e si trovava a Scampia, e l'idea un po' più particolare era che facevano del cibo che univa le tradizioni culturali rom con quelle napoletane, quindi appunto era gestito da rom e napoletani insieme, quindi ovviamente essendo un progetto che operava in una realtà un po' difficile come Scampia, era un progetto di innovazione sociale, era un'impresa sociale. Assolutamente, dove comunque, esatto, dove si fa integrazione, dove si fa cultura, dove si fa occupazione, perché tutto questo appunto deve portare al lavoro. Grazie davvero Luisa, ricordiamo euclidnetwork.eu per tutte le informazioni. Ciao e buon sabato, grazie. Grazie mille, ciao. Un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Servizio volontario europeo. Quest'estate avete voglia di partire per partecipare ad un servizio volontario europeo? Ci sono diverse possibilità nei Paesi Bassi, in Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Le scadenze vanno fino al 1 agosto e la durata del servizio è in genere di 12 mesi. Si tratta di volontariato soprattutto con bambini e la partenza varia dai primi di luglio ai primi di settembre. Per conoscere tutti i dettagli delle varie possibilità, andate sul sito serviziovolontarioeuropeo.it. L'altra Europa. Yeah. sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia, il mio account personale, per seguirci anche sui social network. Sonorità balcaniche, sonorità albanesi per riaprire la puntata. Perché abbiamo scelto l'Albania come punto d'osservazione, come osservatorio privilegiato per capire cos'è l'Europa oggi? Anche perché è notizia di queste ore che la Commissione europea ha confermato la sua raccomandazione affinché il Consiglio conceda all'Albania lo status di candidato. Perché c'è questo, ormai questo balletto che va avanti da anni, il desiderio albanese di poter entrare in Albania, desiderio reale, la popolazione cosa ne pensa? Lo capiremo fra pochissimo. E l'Europa che sta tenendo lo Stato sotto controllo, perché c'è il desiderio di questo allargamento verso i Balcani, però ci sono anche mille timori, mille pregiudizi. Di tutto ciò ne parliamo con un giovane collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, scrive per il Mulino, vive da 2 anni a Tirana, dove sta realizzando anche un dottorato in storia contemporanea tramite l'Università di Pavia. Diamo il benvenuto a Nicola Pedrazzi. Ciao Nicola. Ciao Federico, ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro Nicola, oltre a essere conoscente, studioso, hai ideato anche un progetto, ce ne avevi parlato fuori onda qualche settimana fa, un progetto, ti avevo detto vedrai che ne parleremo, siamo arrivati lunghi ma siamo hai qua. Ho mantenuto la promessa. Perché è un progetto ideato con, se non erro, lo Europe Direct di Forlì, e avete fatto un cammino, un percorso di preparazioni in Albania, dove non si votava, però alle elezioni europee, giusto? Proprio per all'Europa in generale, esatto. Era un progetto che si chiamava, l'abbiamo intitolato in albanese, Te pregatitemi per Europen, cioè prepariamoci all'Europa. E questo prepariamoci era inteso in due sensi, nel senso che l'Italia si prepara dal 1 luglio ad assumere la presidenza del Consiglio, il semestre di presidenza, invece l'Albania si sta preparando all'Europa ormai, come giustamente ricordavi tu, in un balletto che va avanti diciamo da metà anni 90, per cui ci sembrava una buona occasione quella della vigilia del semestre di presidenza italiano di fare un percorso nelle scuole agli studenti di italiano con applicando un progetto che è stato ideato dall'Università di Bologna e dal punto Europe Direct di Forlì e diciamo importandolo in Albania a favore degli studenti di italiano con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura con cui attualmente collaboro. Quindi sì, è stato molto bello perché è stato un viaggio anche a livello nazionale in 6 città dell'Albania, non solamente Tirana ma anche Valona, Girocastro, Scutari, Elbasan. E quindi è stata un'ottima occasione di incontro e di confronto e ho potuto anche toccare con mano l'attesa che giustamente ricordavi prima. Ecco, che attesa è? È un'attesa reale, un'attesa illusoria, è un'attesa concreta? Dunque, tutto questo che hai detto, nel senso che è un'attesa reale perché come hai ricordato la Commissione ha già dato il suo parere favorevole, ricordo che però storicamente ha già dato il suo parere favorevole 3 volte, io ormai sono qui da 2 anni, la prima volta mi sembra fu nel 2012, l'anno del centenario dello Stato albanese, poi però la palla passa al Consiglio che fece aspettare, è successo anche lo scorso dicembre 2013 e adesso se ne ridiscuterà nel prossimo Consiglio di giugno. L'attesa è un po' illusoria anche per, diciamo, a mio giudizio, un po' una disinformazione europea che non è solo un problema degli Stati membri, è anche un problema degli Stati che sono al di fuori dei confini dell'Unione, perché c'è un po' di confusione innanzitutto tra cos'è essere candidati, cioè cos'è lo status di paese candidato e cos'è invece essere in Europa, perché tutta questa attesa è un po', diciamo, anche creata da una sovraesposizione mediatica, ok, in questo senso, perché essere candidati non significa entrare in Europa, abbiamo esempi recentissimi della Macedonia che è candidata dal 2005 ed è, i negoziati di adesione sono lungi dall'essere aperti, la Turchia è candidata dal 99, quindi la stessa Croazia che è entrata è stato membro dall'estate scorsa, dal 2013, adesso non ricordo bene, vado a memoria, ma ha ricevuto lo status di paese candidato 10 anni prima, quindi dalla candidatura ufficiale riconosciuta da tutti gli Stati membri nel Consiglio, che non sappiamo se verrà concesso o meno, appunto non bisogna sbilanciarci perché la storia insegna che è complicato ottenere l'unanimità, cioè il voto di ogni singolo governo nel Consiglio. Da lì possono passare anche 10 anni, un esempio virtuoso è la Croazia, ma sono passati 10 anni, quindi diciamo che tutta questa attesa per rispondere alla tua domanda è reale, perché è giustificata dal fatto che realmente ci sarà un Consiglio europeo in cui si discuterà d'Albania, ma anche un po' sovraccaricata di emozioni: siamo pronti, non siamo pronti all'Europa, sono domande un po' retoriche, perché di fatto possono passare 10 anni tra la candidatura, e nella migliore delle ipotesi, e l'ingresso reale del paese. Nicola, ma scusami, quando guardano all'Europa, cioè, vedono l'Italia o c'è stato anche uno scarto culturale, cioè si riesce ad andare al di là dell'Italia? Dunque, ti dico, visto che siamo in odore di mondiali, ti dico che uno scarto culturale si registra, nel senso che complici i grandi successi in Champions League di squadre spagnole e tedesche, gli azzurri sono sempre, diciamo, la nazionale di adozione, però comunque c'è anche, giustamente aprendosi all'Europa, c'è anche un'apertura verso altri paesi, verso altre aree, quindi c'è un'apertura più generalizzata che si registra non solo nella passione calcistica, ma anche dal punto di vista linguistico e su altri aspetti. Rimane comunque un canale privilegiato con l'Italia, questo per motivi storici, antichi e recenti, ma anche per motivi politici, perché attualmente diciamo che appunto l'Italia è, come ha ricordato Giorgio Napolitano proprio in visita qui in Albania qualche mese fa, è da sempre avvocato della causa dell'Albania in Europa, quindi è uno di quei paesi che il Consiglio ha sempre sostenuto la concessione dello status di paese candidato, quindi diciamo che c'è una proiezione particolare sull'Italia che è storica, culturale, connaturata diciamo nella popolazione, ma è anche politica in questo periodo, perché il governo italiano è sicuramente uno dei principali sponsor della causa albanese in seno al Consiglio. Certo. Nicola, grazie davvero per questa sintetica fotografia ma molto efficace. Ricordiamo: Osservatori Balcani e Caucaso, Albania, le europee fuori dall'Europa, il tuo ultimo articolo che consiglio, perché è un'ottima lettura per avere un'idea di cosa sia l'Albania oggi, di quelle che possono essere le reali prospettive, di quello che appunto che sono le reali attese. Ciao, buon lavoro, in bocca al lupo per tutte le tue attività, alla prossima. Ringrazio tutti e ti saluto e ti ringrazio e faccio i complimenti per la trasmissione. Ciao. Grazie. Ciao Nicola. Ciao. Europostit. Master internazionale a Bruxelles. La Camera di Commercio belgo-italiana organizza un Master in sviluppo internazionale di impresa dedicato a futuri giovani manager desiderosi di intraprendere una carriera professionale in Italia o all'estero in un ambito internazionale. È organizzato in collaborazione con l'Istituto di Studi Europei dell'Università Cattolica di Lovagno e si svolge a Bruxelles durante il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. Il master prevede, oltre alla teoria, anche corsi di lingua e visite alle imprese. Per partecipare è necessaria una buona conoscenza dell'inglese e una laurea triennale. Per saperne di più, andate sul sito del master, master5.eu. Per iscriversi c'è tempo fino al 3 settembre. S'arrêter prendre un pot sur la autopista, manger un bocadillo e boire un Coca-Cola, puis repartir de nouveau vers d'autres endroits. En Vespa, oh oh oh oh, avec toi, oh oh oh, en Vespa. Da Attigliano, siamo in Umbria, la provincia è quella di Terni, a capo nord in Vespa, per difendere l'olio d'oliva umbro, tutto ciò col patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, di Spazio Europa, degli uffici italiani del Parlamento Europeo, perché l'Europa è anche questa, è riuscire a così localizzare, patrocinare quello che è il local, quello che è la tradizione, cercare di diffonderla anche negli altri stati membri. Lo si fa anche con iniziative curiose come quella che ha ideato questo sindaco con la passione per la Vespa, e che quella che era una maratona di soli 42 chilometri per parlare del proprio olio d'oliva è diventata una lunga gita di oltre 3700 chilometri, 3 settimane in Vespa, portando con sé sempre il proprio olio. Diamo il benvenuto a Daniele Nicchi. Buongiorno sindaco, benvenuto all'Altra Europa. Dove vi trovate? In questo momento siamo nella cittadina di Tromsø e siamo ormai a circa 600 km da Capo Nord, siamo veramente vicinissimi e il nostro viaggio sta raggiungendo la meta prefissata. 42 km è un po' l'area di questa maratona dell'olio, così chiamata perché è la strada che collega varie zone della vostra terra e che da anni insomma utilizzate per promuovere il vostro prodotto. Come mai siete nati oltre confine a questo giro? Beh, perché poi una volta insomma iniziata la promozione nel nostro territorio, fatta conoscere nei confini dell'Umbria, nei confini ovviamente italiani, è chiaro che il nostro olio ha la necessità di farsi conoscere anche all'estero. Abbiamo un prodotto di ottima qualità e è necessario che le istituzioni diano una mano a coloro, produttori, che appunto si impegnano tutto l'anno per darci un prodotto ottimo in termini qualitativi, di farlo conoscere anche all'estero. Per cui ci siamo inventati questa gita, così dire, a Capo Nord, ma ha un qualcosa, un valore molto più alto e nobile, perché ovviamente noi all'interno di questo tragitto abbiamo inserito delle tappe di degustazione di carattere enogastronomico e ovviamente facciamo assaggiare insieme all'olio altri prodotti tipici nostri locali, per cui la prima tappa è stata fatta a Kassel in Germania, dove abbiamo avuto la prima degustazione. Ne faremo un'altra a Forza, vicino ad Helsinki, dove stiamo stringendo una sorta di gemellaggio con la città, appunto la cittadina di Forza, tra loro e tutti i 12 comuni facenti parte della Maratona dell'Olio. E poi scenderemo giù a Belluno, dove sostanzialmente anche lì ci aspetta un altro appuntamento che ha più o meno lo stesso, diciamo, dello stesso tipo. Mm-hmm. Tutto ciò in Vespa, è tornato giovane sindaco? In Vespa perché io sono un appassionato vespista ormai da tantissimi anni, collezione Vespe, e abitualmente ogni anno nei mesi estivi giriamo sempre per l'Europa, ma con amici, e andiamo insomma a visitare, diciamo più o meno abbiamo girato quasi tutti i paesi europei, quindi con delle tappe decise di anno in anno, per cui siamo degli abitué un po' di questi viaggi. È chiaro che un viaggio a Capo Nord, dove alla fine al nostro ritorno avremo contato sicuramente circa 9.500 chilometri, è un qualcosa di unico e chiaramente di difficilmente ripercorribile in Vespa, perché è un tappe di 500 chilometri al giorno, sono veramente dure e pesanti da affrontare. Maratonadell'olio.it per tutte le informazioni, grazie davvero e buon proseguimento, ancora un paio di tappe e buon ritorno in Italia. Grazie a tutti, grazie. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Tirocinio come mediatore europeo a Strasburgo e Bruxelles. Se siete laureati in giurisprudenza, conoscete francese ed inglese e siete in cerca di un'esperienza internazionale, questo tirocinio vi offre una grande possibilità. Il mediatore europeo, l'ente che gestisce i contenziosi che coinvolgono istituzioni e organismi dell'Unione Europea, offre a laureati la possibilità di svolgere tirocini dai 4 agli 11-12 mesi presso le sedi di Strasburgo e Bruxelles. Per gli stagisti è previsto un contributo economico. Per partire il prossimo gennaio è necessario fare domanda entro il 31 agosto. Trovate informazioni e modalità sul sito ombudsman.europa.eu nella sezione Assunzioni. L'altra Europa. Nel giardino dei giusti di tutto il mondo, al Monte Stella, 4 nuovi alberi affondano da oggi le loro radici. Il larice respirava nell'appartamento moscovita perché nessun uomo dimenticasse. Quelle che state ascoltando sono sonorità, sono parole che riportano alla celebrazione dell'inaugurazione, dell'apertura del Giardino dei Giusti di Monte Stella a Milano. Il Giardino dei Giusti è un progetto di memoria. Nel 2012 il Parlamento Europeo ha istituito il 6 marzo come giornata europea dei giusti a ricordo di coloro che si sono battuti e si battono contro tutti i genocidi, totalitarismi. E giardini che nascono, che crescono, giardini che fanno viaggiare nel tempo. Il 5 giugno è stato inaugurato il Giardino dei Giusti di Varsavia, luogo simbolico, forse molto di più di tanti altri. E volevamo parlare con Gabriele Nissim, giornalista esperto di Europa orientale, saggista e presidente del Comitato per la Foresta dei Giusti. Buongiorno Gabriele, ben ritrovato, bentornato all'Altra Europa. Buongiorno. Cosa significa l'apertura di questo giardino a Varsavia? Io credo che prima di tutto sia un grande successo italo-polacco, no? Perché già nel Parlamento europeo furono i deputati italiani con quelli polacchi che riuscirono a ottenere, diciamo, la maggioranza dei deputati per la famosa mozione che storava la giornata dei giusti. E poi perché questo giardino è nato appunto con la collaborazione tra Garivo, la Foresta dei Giusti, con Incontri con la Storia, che è una importante associazione di memoria polacca, e si è ottenuto appunto di creare questo giardino proprio in un quartiere Vola, nel ghetto di Varsavia, no? Che è un luogo simbolico molto importante. Io direi che la Polonia, il giardino in Polonia è importante soprattutto perché è un luogo che ha conosciuto i due peggiori totalitarismi del secolo scorso, ha conosciuto il nazismo, ha conosciuto la Shoah, però ha conosciuto anche le deportazioni dei polacchi nel Gulag, ha conosciuto lo schiacciamento di una nazione, no? Prima occupata dalla Germania, poi si è divenuta satellite dell'Unione Sovietica. Quindi questo giardino è, come dire, è un monito per ricordare tutti gli uomini che si sono battuti contro i genocidi e i totalitarismi, perché il significato non è solo relativo al passato, ma vuole guardare all'oggi, perché non si ricordano i giusti soltanto così per fare una retorica del passato, cioè non c'è ovviamente, bisogna non dimenticare mai, ma qual è il modo di non dimenticare mai? Il modo è quello di guardare al tempo presente, perché un passato lacerato può essere ricomposto solo se non si ripete nel tempo presente quello che è successo nel passato. Certo, allora è un po' questo. Andiamo a Varsavia e andiamo da Anna Ziarkowska, che è a capo della Casa degli Incontri, che è un museo casa della cultura della città di Varsavia e segretaria del Comitato del Giardino dei Giusti di Varsavia. Buongiorno Anna. Buongiorno a tutti. L'Europa che non dimentica, ma come diceva Gabriele adesso, l'Europa che è ben salda nel presente, che significato ha per Varsavia oggi questo giardino? In questi giorni stiamo festeggiando il 25esimo anniversario della caduta del comunismo. L'inaugurazione del giardino fa parte della festa della libertà. Questi uomini, questi giusti, rappresentano i valori che sono molto importanti per noi polacchi, il valore della democrazia, della libertà. E per quello, secondo me, questo giardino e la giornata dei giusti è, per noi polacchi, è molto importante. Poi, d'altra parte, come ha detto già Gabriele Nissim, Polonia e Varsavia sono i posti che hanno sofferto tantissimo durante la Seconda Guerra Mondiale e anche dopo, durante il comunismo. Forse come tutti i paesi che hanno sofferto troppo per la sua storia, siamo un po' chiusi nelle nostre sofferenze. E questa apertura del giardino universale dove possiamo parlare di tutti i giusti, di tutto il mondo, ci apre alle altre esperienze, alle esperienze di Cambogia, dell'ex Jugoslavia, della Ruanda. Garivo.net, come sempre, per avere tutte le informazioni, nomi importanti, quelli che sono ricordati, quelli che hanno trovato il loro spazio nel giardino dei giusti a Varsavia, così come in tutti gli altri giardini che ci sono nel mondo. Grazie davvero Anna, complimenti per questo bel inizio per questo bello spazio che avete scelto di dedicare alla vostra città. Gabriele, complimenti anche a te, insomma, un lavoro che continua giorno per giorno per non dimenticare ma per guardare al futuro, come hai ricordato. Grazie ancora. Io sono il nostro collaboratore, siamo lieti di poter collaborare con voi. Grazie, saluti. Buon sabato. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, a Giorgio De Luca oggi in assistenza, Margherita Ina che con me ha scritto la puntata, Pietro Lacorte alla parte tecnica, l'Altra Europa @radio24.it se volete contattare la nostra redazione, oppure ci trovate sui vari social, Facebook e Twitter, Federico Taddia al mio account personale. Come sempre la puntata sarà riascoltabile dal nostro sito radio24.it. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.